Vlog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Cogli l'attimo, cogli la rosa quando è il momento. Perché il poeta usa questi versi? Perché va di fretta. No, ding, grazie per aver partecipato al nostro gioco. Perché siamo cibo per i vermi, ragazzi. Perché, strano a dirsi, ognuno di noi in questa stanza un giorno smetterà di respirare, diventerà freddo e morirà. Adesso avvicinatevi tutti e guardate questi visi del passato. Li avrete visti mille volte, ma non credo che li abbiate mai guardati. Non sono molto diversi da voi, vero? Stesso taglio di capelli, pieni di ormoni, come voi, invincibili, come vi sentite voi. Il mondo è la loro ostrica. Pensano di essere destinati a grandi... Diciamo che quello dell'attimo fuggente è un esempio che ormai è diventato classicamente storico. Molti studenti sperano di ritrovare qualcosa del genere sui banchi di scuola, molti professori attaccano la foto al muro del professore protagonista e ci tirano le freccette contro perché li mette in crisi, gli crea degli scompensi quotidiani rispetto a quello che è il loro realistico lavoro. Qualcosa che riguarda ancora studenti e professori però sta accadendo in questi giorni, anche se accade nel mondo parallelo e sommesso dei social media, poi nemmeno tanto parallelo e nemmeno tanto sommesso, perché i giornali, assetati di notizie, li vanno a pescare. E hanno tirato fuori una storia divertente che questa mattina vi riproponiamo, vi sottoponiamo, quindi supponendo che molti di voi avranno figli al termine del loro anno scolastico, esaminati o non esaminati, o promossi o rimandati, via dicendo, che dovranno affrontare comunque anche il problema del mantenimento in esercizio dei loro menti anche nei mesi estivi. Una innata polemica: i compiti delle vacanze, se ne fanno troppi, non si fanno. Un professore di filosofia di Fermo, Porto San Giorgio, Cesare Catà, ha pubblicato sul giovane professore dinamico, simpatico, un bel ragazzo, come tutti vorrebbero un professore in antitesi alle ammuffite presenze che molte volte siano dietro le cattedre, ha pubblicato su Facebook un suo proclama che io sintetizzo, ma è molto lungo, mi è appena arrivato via WhatsApp mentre stavo in diretta, perché abbiamo appena rintracciato il professore, che esorta ragazze a fare delle azioni totalmente rituali rispetto a quello che è il rigore scolastico, che ha creato comunque, perché è diventato immediatamente virale questo testo, borbottii e discussioni. La sintesi che leggo su qualche giornale, ma ripeto, è soltanto una sintesi, dice: ragazzi, ballate senza vergogna, sognate la vostra vita, non dite parolacce, siate gentili, però almeno una volta andate a vedere l'alba. Questi sono i compiti delle vacanze che assegna ai suoi studenti il professor Cesare Catà, che abbiamo al telefono. Professore, buongiorno. Buongiorno a voi. L'abbiamo colta proprio al volo perché ci piaceva questa mattina avere la completezza di questa notizia. Mentre facevo la presentazione mi è arrivato su WhatsApp da un mio collega quelli che sono i suoi compiti dell'estate. Non sono riassumibili in queste tre battute come hanno riportato i giornali, ma vedo sono 15 punti. Vediamo se riesce a farci capire qual è l'oggetto di tanto scandalo. Ma secondo me è perché siamo usciti un po' fuori dallo schema dell'impostazione classica della scuola italiana fin dai tempi di Croce e di Gentile, cioè imparare delle nozioni che sono scisse dalla vita e che non c'entrano niente con le cose che facciamo. Lei insegna al liceo delle scienze umane Don Bosco, sì, quindi dai salesiani. No, è una scuola. Ah, non c'entra, no, perché se erano i salesiani l'avrebbero già depennata dall'elenco. Probabilmente io so, soltanto il nome si ispira. Sono un ex allievo salesiano, quindi figuriamoci, erano dei compiti totali, radicali, defatiganti, devono togliere ogni velleità vitale ai ragazzi, devono affaticarsi per non rovinarsi con le loro stesse mani. Sì. Invece lei cosa consiglia? No, qui è il contrario, cioè non si tratta di togliere la vita attraverso i compiti, ma di scoprire che il senso dei compiti sta dentro la vita. Non sono dei compiti oziosi, cioè non significa sprecate il vostro tempo, significa cogliete nelle cose che si fanno tutti i giorni la bellezza, e questa bellezza c'entrerà con le cose che studiamo e che abbiamo studiato nel corso dell'anno, che è l'impostazione didatticamente certo eversiva rispetto a quella che è l'impostazione accademica ammuffita della scuola e dell'università italiana, me ne rendo conto. No, poi lei ci mette, non dite parolacce, quello che ha colto l'articolista, che in realtà è soltanto il punto 12, prima ci sono tante cose, per dimostrare che in realtà non è l'inno alla trasgressione, fate quello che cavolo vi pare, è qualcosa di un po' più articolato. Sì, è molto più articolato, ma non dire parolacce però non è un proclama, diciamo, morale. Non dire parolacce è una conseguenza dell'essere colti. Una persona colta è per forza una persona gentile, come diceva Pasolini, una persona che ha a che fare con la cortesia. Quindi rispettare il linguaggio italiano significa anzitutto non utilizzare parole che sono scortesi. No, è anche bello, adesso che lo sto leggendo interamente, Ballate senza vergogna è qualcosa di bello, dico, prendete quello che c'è di meglio nella vostra stagione, siate allegri, siate lieti. Ma qual è stata la reazione che c'è stata sui social network? Intanto istigo i miei ascoltatori a dare un loro contributo, 800240024, cosa ne dite voi di un professore che dà questo tipo di proclama ai vostri ragazzi invece che dirgli ammazzatevi, spezzatevi la schiena, continuate a stare sui libri, non mollate un attimo un rigore? Poi ragazzi, in realtà, questo vorrebbero sentirsi dire. Mi dice le reazioni sia dei ragazzi, che l'avranno senz'altro risposto, sì, perché il tramite, immagino, del social network sia vivace con loro, ma anche i genitori, anche il corpo insegnanti, come ha reagito? Sì, dunque, premetto che questi compiti non sono alternativi a quelli, diciamo, classici, ma sono complementari, nel senso che noi studiamo e facciamo tutto il resto, ma questa è un'altra parte. Ma le reazioni dei ragazzi sono state molto positive, mi scrivono, mi raccontano quello che fanno, capiscono che questa cosa non è una cosa soltanto, diciamo così, eversiva rispetto alla realtà, ma c'entra con il percorso didattico. I genitori sono altrettanto contenti, qualche malumore in una certa parte della classe docente italiana si è creato dopo il clamore virale dei compiti, ma me l'aspettavo. Si è fatto anche un po' prendere la mano dalla vis poetica, nella luce sfavillante o nelle notti calde sognate come dovrà e potrà essere la vostra vita, nell'estate cercate la forza per non arrendervi mai e fate tutto per perseguire quel sogno. Poi mette il punto 15, sembra quello veramente del prete salesiano, fate i bravi. No, sì, certo, è un richiamo evangelico, ma non c'è poco di pretigno in tutto questo, c'è poco di... Diciamo un po' a metà, è un prete illuminato che sembra che sia l'anima che l'ha ispirato, no, o sbaglio? In un certo senso, ma più vicino appunto all'attimo fuggente che non a delle prescrizioni catechistiche, cioè qui fate i bravi significa siete voi stessi fino in fondo, siete all'altezza di quello che siete. Già mi stanno scrivendo sms, o capitano, mio capitano, hanno visto in lei, diciamo, la radice profonda dell'ispirazione. Fermo un attimo, Roberto, buongiorno Roberto. Sì, buongiorno, sì. Buongiorno Nicoletti, un saluto a tutti. No, intervenivo perché questa storiella legata a questi compiti alternativi assegnati per le vacanze ai ragazzi, mi pare di averla già intravista e letta su internet, su Facebook. Insomma, sì, poi sta girando, è diventata virale, quindi spenga la radio però gentilmente. Sì. Quindi cioè adesso non ho seguito purtroppo l'intervento del professore perché... No, il professore anzi ha articolato la sua intenzione, che non è semplicemente una frase ma è molto più complessa, è tutto un inno alla gioia, un inno a vivere intensamente lo splendore della loro giovane età, quindi mi sembra giusto. Ma lei qual è il suo punto di vista? Da un professore in modo praticamente ufficiale, ecco, però il mio intervento era solo per dire che non è una cosa nuova che sta girando. Non so nemmeno che l'abbia messo in rete, però credo sia stata condivisa da molti genitori che hanno i figli a scuola. Come io ho un figlio a scuola, effettivamente condivido il fatto che non può essere solo un'estate di compiti, di calcoli, di frasi fatte, insomma, di compiti fatti. Lei però diciamo è d'accordo con questo punto di vista, non ha nessun tipo di censure? No, anzi, no, assolutamente, ben vengano professori che pensano in questo modo, insomma. Stefano Morigi, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Storico, filosofo della scienza. Siete praticamente due uomini che si occupano di filosofia, ma con punti di vista collimanti o antitetici? Ma per alcuni collimanti, nel senso che già da studente, ma anche adesso da docente, io sono abbastanza e sono stato da sempre abbastanza contrario all'idea dei compiti delle vacanze, perché erano quelle incombenze che poi si riducevano a fare all'ultimo momento e non portavano grande risultato dal punto di vista della continuità didattica interrotta dalle vacanze estive, per cui su questo sono d'accordo. Sono un po' meno d'accordo su alcune indicazioni, tu parlavi di una specie di sacerdote laico che a me ricordano più quelle di un capo scout, fate i bravi, siate gentili, fate attraversare la strada alle vecchiette, questa non c'è, ma la aggiungo io perché mi sembra in linea con questo tipo di filosofia. Mi sembra. Quindi dove vuoi andare a parare? Dove vuoi andare a parare? No, che non sono d'accordo su un diciamo moralismo così un po' obliquo che attraversa queste indicazioni. Per me essere educatore non significa indicare la linea, ma mettere gli studenti con i loro strumenti e le loro capacità di fronte ai problemi dell'esistenza, non dare delle indicazioni, no? Come fanno. C'era un famoso filosofo tedesco che si chiamava Max Scheler che diceva che i moralisti sono come dei cartelli stradali che indicano la strada ma sono fissati nel terreno e non la seguono. Quindi diciamo non c'è una presa di posizione di essere un po' questo. Cioè non manca una presa di posizione ideologica, diciamolo chiaramente, oppure di indicazione forte, concreta sui valori o su i problemi esistenziali. Il mio timore è che ci sia ma sia nascosta, capito? Io penso che i ragazzi i valori li devono scoprire scontrandosi con la realtà, avendo dalla scuola gli strumenti giusti, e che la scuola non debba fornirgli dei valori preconfezionati. Questo secondo me è il grave mentre riflette Cesare Cattà, perché mi interessa questo punto di vista. Ho scelto Stefano Morigi, che è un filosofo della scienza, che è un docente universitario, ma si sta occupando molto di didattica, soprattutto didattica attraverso le nuove tecnologie, per valutare quello che è un atteggiamento sincero, poi di cui si prende tutto il peso il professor Cesare Cattà. E visto che c'era stato dibattito su questo, noi continuiamo a fare dibattito. 800240024, in attesa Giuliana, buongiorno. Poi Cattà risponderà naturalmente. Buongiorno. Sì. Abbassila, spenga la radio. No, io sono intervenuta perché il dibattito era interessante, fresco, vivace. E mi ricordavo così. La radio, signora, spenga la radio. Dove si diceva. Spenga la radio, se non si sente nulla. Come? Spenga la radio, se no non sentiamo nulla. Ah, spengo la radio, sì. La base. Non la sento bene, però. Parli. Dove anche nel Faust si dice, no? La scienza è grigia. La vita è verde, cioè voglio dire, quindi quest'uomo ha dato dei suggerimenti ad usare il tempo libero, diciamo, che poi è il tempo libero, no, anche quello delle vacanze, a vedere quelle cose che ci dimentichiamo di vedere tutti i giorni, magari, un tramonto, un'alba, cioè forse, ecco, ad usare il tempo per l'entusiasmo, che molto spesso non si dà sui libri, che si vedono come un obbligo. Di no? solito come l'entusiasmo viene bene se uno lo contamina, se uno è entusiasta riesce a trasmettere l'entusiasmo come compito un po' più difficile. Cesare Cattà, vediamo, le ho dato sì. un bel parterre di opinione, mi sembra che in realtà la linea dei genitori sia quella favorevole, dice, sì, finalmente qualcuno dice ai nostri figli sta contenti, perché non bisogna nemmeno pensare che oggi gli adolescenti, che età di studenti è a lei sotto, diciamo, sotto la sua tutela? Più o meno. Dunque, io ho il liceo dai 14 ai 18 e poi quando insegno saltuariamente all'università anche i ragazzi più grandi. Diciamo 14 ai 18 non è un'età in cui sono degli allegroni, sono sempre attraversati da grossi problemi i ragazzi. Ma certo, ma sarebbe sciocco considerarli degli uomini in miniatura, sono già degli uomini con una prospettiva diversa secondo me. Ma io volevo rispondere però alla provocazione interessante sul moralismo della questione, perché non c'è nulla di morale in questa lista, perlomeno nell'ispirazione. Non si tratta di dare valori precostituiti, tutt'altro, si tratta di portare dei principi come esempio. Da molto tempo gli insegnanti hanno paura di essere considerati auctoritas, diciamo da 40 anni in Italia. Questo non significa imporre nulla, significa fare delle proposte. Poi l'ispirazione di questi compiti è tutt'altro che morale, diciamo che al fondo se ci vuole essere un filosofo c'è Nietzsche e quella voglia di vita, quindi c'è tutto un attacco alla morale semmai. Per cui la definizione di compiti da capo scout mi sta un po' stretta. Va bene, riflettete solo un istante, devo dare le informazioni del traffico, poi vi rimettete ognuno nelle sue posizioni e ci farete capire esattamente qual è un giusto termine di compromesso, se mai è possibile dirlo, di fronte a una visione tradizionale del compito delle vacanze, del ruolo dell'insegnante, una visione del professor Cattà, che comunque si è esposto, si è messo in prima linea, ci ha messo la faccia e quindi lo ascoltiamo. Melog, cronache meridiane. Stiamo facendo un piccolo confronto di opinioni tra, che mette al centro dell'attenzione la figura dell'insegnante. C'è sempre una profonda e insanabile dialettica fra le apparenze e la sostanza. Poi ci sono insegnanti che all'apparenza sembrano essere alla mano, essere vicini ai ragazzi, sono quelli che molte volte suscitano maggiori sospetti da parte dei colleghi più tradizionalisti, ma molte volte poi quando si va assaggiare a vedere sono quelli che in realtà non sempre hanno piena consapevolezza di quello che è il loro ruolo. Non è questo il caso del professor Cesare Catà, che si è esposto in un social network dando una sua lista di compiti per le vacanze ai ragazzi, che sono i compiti che sono un inno a vivere la spensieratezza propria della loro età e non chiamano in gioco quelli che sono i loro doveri. Abbiamo la posizione di Stefano Morigi, sempre uno storico, un filosofo della scienza, che in realtà sarebbe per una diciamo per un intervento più articolato, più preciso, con una precisa presa in carico del ruolo dell'insegnante. Intanto sentiamo qualche ascoltatore. Ennio, buongiorno. Buongiorno, io sono un insegnante di educazione fisica. Durante l'anno non do ovviamente mai delle cose da fare a casa, ma d'estate invece gli do. E sono dei compiti così che secondo me devono contribuire alla loro felicità. Quindi se vanno al mare nuotare, se non vanno al mare stanno a casa andare in bici con gli amici, e avanti così gli faccio tutta una serie di possibilità che loro hanno. E vedo che i ragazzi sono molto contenti. Siccome vacanza vuol dire non fare niente, ma no, non fare niente in maniera, come posso dire, da sdraiarsi su un divano. Dovrebbe essere il senso classico dell'ozio, che in realtà era il periodo più fecondo tutto sommato. Esatto, fare delle cose che ci piacciono e che ci fanno stare bene. E io discuto sempre con i miei colleghi perché danno dei compiti delle vacanze che loro fanno l'ultima settimana. Magari li fanno anche di loro genitori. Io sono di un'altra generazione, guardi, per me è sempre stato il compito di vacanza una lista di cose da fare che facevamo l'ultima notte prima di ricominciare a scuola il giorno dopo, fatto male in maniera affrettata con una delle peggiori purghe che uno dovesse mandare giù. Giulia, buongiorno. Buongiorno. Niente, io avevo sentito questa notizia di questi compiti di questo professore, mi è arrivata perché il tantam di internet è stato qualcosa di incredibile, tanto che questa persona è stata osannata come il professore che tutti vorrebbero. Sì, perché anche Caruccio, diciamo la verità, lei è una giovane studentessa, meglio aver questo che quelli scaccolosi, puzzolenti con la forfora sulla giacca, questo è chiaro. Beh, sicuramente è una ventata di aria fresca, anche se internet poi l'ha strumentalizzata in una maniera incredibile. Sono sicura che il professore avesse degli intenti molto positivi, ma è stata strumentalizzata molto come cosa. Io semplicemente volevo dire che purtroppo questo è il classico caso particolare che avviene perché la persona è particolarmente, come dire, una persona particolare, una persona che ha delle idee particolari rispetto a quella che è la linea di principio della stragrande maggioranza degli insegnanti. E la cosa è molto triste perché la scuola italiana funziona bene solo a discrezione di queste persone particolari, queste persone che hanno delle qualità molto importanti. Ma a lei cos'è che ha attratto? La foto di copertina, il professore col cappellino bianco, con la bicicletta che va tutto tranquillo, l'aspetto iconografico o il senso di questi compiti per l'estate, che sono 15 punti, che però almeno si è preso la briga di scrivere qualcosa, di fare un testo, di metterci la faccia, ha avuto anche successo, ma si è impegnato rispetto alla prassi di dare un elenco di libri da leggere o di cose da scrivere? No, sicuramente, io mi è arrivato questo elenco, non avevo visto la foto del professore col cappellino e cioè, naturalmente il pensiero è venuto anche a me, avessi anch'io un insegnante del genere che mi desse dei compiti di questo tipo, però quello che mi chiedo io è cosa possiamo fare noi studenti se non ci capita un professore del genere. Come possiamo noi amare e andare d'accordo con una scuola che è sempre più lontana da quella che è la nostra vita nel momento in cui le persone che abbiamo in cattedra sono le classiche cariatidi che pensano solo ad arrivare alla fine del programma? Fermo un attimo, Stefano Morigi, adesso il rischio è che tu passi per la vecchia cariatide che non è solamente questo, conoscendoti sei tutt'altro. Però dimmi una cosa, ma secondo te poi alla fine, al di là del professore è andato a fare gli esami quindi non l'abbiamo più al telefono, ma ha espresso il suo punto di vista, in realtà se una cosa è compito per le vacanze, il senso è che quando uno ritorna a scuola in qualche maniera presenta il compito fatto. Questa lista di compiti non sono compiti che nessuno potrà dire ho ballato portando le foto di quando ha ballato, o fatto non aveva vergogna, o dire che è stato contento. È un'indicazione vaga di vita, ma non è un compito. Ecco, appunto, e questo è il punto. Io premetto, sono contro qualsiasi forma di compito delle vacanze, tanto per sgombrare il campo dagli equivoci. Poi qualche libro da leggere come consiglio non è male. Un qualche sospetto quando vedo delle indicazioni più o meno moralistiche su come occupare il tempo libero dei ragazzi. Una delle forme con cui i ragazzi possono imparare ad assumersi la responsabilità di muoversi nel mondo è quella di fare i conti con il vuoto della vacanza. Devono assumersi il carico sulle spalle di questo vuoto e imparare a gestirsi il loro tempo quando il tempo non è gestito dai ritmi schedati e schedulati della scuola. Il vero compito delle vacanze è mettere i ragazzi di fronte al vuoto, alla possibilità di inventarsi il tempo che nessuno organizza per conto loro. Fammi un esempio concreto, Stefano, per capire un compito ideale per le vacanze. Anch'io sono d'accordo, onestamente, io dovrei con grande capacità di persuasione dire però ragazzi siete 3 mesi liberi, magari questo elenco di libri io vi consiglierei di leggerlo perché fa parte della vostra formazione, avete più tempo, pure questi film guardateveli, ma dare un ambito in cui poi ho possibilità di una verifica per capire un autore, una corrente, un punto di vista qualsiasi, anche il più balzano o il più tradizionale, dire semplicemente andate a ballare, siate contenti, siate felici, grazie, è la regina delle paraculate, perché tutti mi dicono sì che bello, anch'io lo faccio. Durante l'anno è stato fatto un lavoro in un certo modo, non c'è bisogno, ragazzi, di dire leggete quello, fate quell'altro. Saranno così appassionati alla tua materia o a quello di un altro docente che, appunto, come dicevi tu, in quanto contaminati, proseguiranno per conto loro. Il vero compito delle vacanze è metterli di fronte al vuoto. Ci sono 3 mesi di vuoto, assumetevi la responsabilità di gestirlo nel modo possibile e fate i conti con le vostre scelte. Fermo un attimo, se Riccardo. Buttato via, certo. Come diceva Seneca, il tempo non ve lo restituisce. Non lo ridà nessuno. Riccardo, c'è qualcosa di molto concreto. Riccardo. Sì, buongiorno a tutti, sì. Sono Riccardo da Liubica Maiore. Ecco, quello che voglio dire io è questo qua, che in realtà io non credo, perché siamo stati ragazzi tutti, che avessimo bisogno nel momento in cui c'erano le vacanze che qualcuno ci dicesse, soprattutto un professore ci dicesse come poter godere delle nostre vacanze e del nostro tempo libero. In realtà penso che tutti noi sapessimo benissimo usufruirne nel miglior modo, godendone appieno, ballando senza vergogna e andando a vedere anche più albe durante un'estate. E quello che semmai a me preoccupa è il fatto che... lo dica però, perché sennò la sigla ci taglia via. Sì, dicevo, è il fatto che invece poi la vita è molto diversa, perché quando poi uno inizia a lavorare, nel lavoro tutto questo godimento non c'è. Ecco, lei dice molto concretamente, mi spiace la riassumo, quando andrete a lavorare, noi vi dicono andate a ballare, siate felici, e siate leggeri, non dite parolacce, ma vi dicono lavora, suda, fatica, fai esattamente questo, se non lo fai un calcio nel sedere. Alla prossima!